sciocco qualunque lo può mangiare, ma invece il Signore ha inteso escogitare un modo più divino per consumarlo. Rendiamo lode al nostro fattore e gloria alla sua bontà, imparando a conoscere la birra. Siamo trappisti, monaci, birrai, però non possiamo bere mai. Solo la bada in tutta libertà può assaggiare con impunità quelle bionde così invitanti, dalle fragranze inebrianti. Ma in un giorno d'inizio estate viene strozzato l'odiato abate. Basta con rigide regole di vita, si dia una festa per la ripartita. Dov'è quell'idiota, il sagrestano? Tocca a noi darci una mano. Smetti l'antecille di dormire, corri svelto al campanile, avverti presto il villaggio, siano le campane come un messaggio. Quella che stasera vi ho raccontato.